parliamo un po', avrei da dirti ma non so, argomentando di fatti miei, ti sto parlando e non ci sei, lontano io, ma tu di più, ho un nodo in gola che non scende giù, mi stai sentendo? Aspettando